Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko al cantautore savonese Edoardo Nocco. Ciao Edo, ben tornato in realtà ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, ciao a tutti. Sì, ci eravamo già sentiti per il primo EP, appunto, a ottobre, mi pare, 2020. Sì, qualche tempo fa e oggi ritorniamo a risentirci perché è uscito il 27 maggio l'ultimo tuo lavoro, l'ultimo singolo, Mi sento bene. Vorrei iniziare un po' da qui chiedendoti innanzitutto come nasce questo progetto, come nasce questa nuova pubblicazione. Allora, diciamo che in questi 2 anni sono successe un po' di cose, nonostante appunto la pandemia. Ho iniziato a collaborare con una nuova etichetta di Roma che si chiama T-Rex Music e appunto fin da subito mi sono trovato molto bene e anche se siamo appunto a distanza riusciamo comunque a lavorare bene. E diciamo che il brano è nato appunto ad Albisola dove io ho il mio studio di registrazione e la produzione è stata curata da Matteo Costanzo, che appunto è un producer che ha collaborato con nomi importanti in ambito nazionale e col quale avevo anche già prodotto alcuni pezzi del mio primo EP. E niente, quindi il pezzo è nato completamente proprio in mezzo al verde, sciallandosi, stando proprio tranquilli nello studio e abbiamo tirato giù un sacco di idee e poi appunto è nata l'arrangiamento e la produzione di questa canzone. Il pezzo invece l'avevo scritto tipo un annetto fa, una cosa del genere, non mi ricordo esattamente. E niente, mi sento bene, ci tengo a precisare che non, come dire, non coincide con l'assenza dei problemi che le persone possono avere, ma significa comunque imparare a convivere anche con i momenti più difficili e sviluppare anche magari la capacità di riconoscere la felicità anche dietro le piccole cose e le semplici cose. Io spesso mi trovo, non so, io sono un ragazzo appunto della Riviera, quindi deserta d'inverno e strapiena d'estate, mi ritrovo spesso ad andare in riva al mare a pensare, oppure anche con gli amici a bere una birra e anche appunto sia da solo che in compagnia spesso mi ritrovo a cercare di dare un senso a questa esistenza provinciale dalla quale provengo, che non è quella della grande città, della metropoli, ecco. Nel 2022, Mi sento bene è il secondo dei tuoi singoli pubblicati. Ad aprile era uscito il singolo Da un po', singoli che entrambi anticipano il tuo primo disco, che uscirà sempre quest'anno, giusto? Sì, esatto, uscirà verso settembre-ottobre, ci saranno diverse tracce, tra cui appunto queste 2 canzoni che ho già pubblicato. Adesso infatti sono alla realizzazione delle ultime produzioni per poi procedere alla registrazione delle voci, ma sono già a buon punto, quindi è già quasi pronto in realtà. Ci vuoi dare qualche anticipazione rispetto anche ai contenuti, di questo tuo lavoro? Ah, sicuramente questi 2 singoli che sono usciti sono i più freschi, diciamo, i più presi bene da un punto di vista anche del sound. Gli altri pezzi non sono tutti così, quindi ci sarà anche la parte un po' più melanconica e introspettiva che magari nel primo EP era già emersa, esiste ancora e quindi ci sarà anche quella parte lì. E sarà tutto suonato, cioè non ci saranno strumenti virtuali, sarà tutto suonato con strumenti veri, acustici e poi ci sarà anche un tour o comunque delle date in giro per l'Italia che adesso stiamo organizzando, quindi ci potremo vedere anche live finalmente. Dai, noi non vediamo l'ora. Edo, io ti ringrazio di questa chiacchierata e chiaramente ti auguro una buona fortuna per l'uscita dell'album che noi aspettiamo con tanta attesa, ecco. Grazie mille, grazie a voi e ci sentiamo presto.